Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, mi sorprende il fatto che dopo la crisi economica e con i gravi problemi finanziari che sono emersi per la Grecia, ci sia qualcuno che pensi che l'Italia dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di uscire dalla moneta unica. Mi sorprende soprattutto il fatto che ci sia ancora qualcuno che abbia nostalgia della lira, ma non quella degli anni 60, che con la sua stabilità aveva favorito il miracolo economico, ma quella delle ripetute svalutazioni degli anni 80 e 90, che hanno costituito le premesse delle difficoltà competitive dell'industria italiana. Filippo. Caro Filippo, le sue parole sono di sano buonsenso, ma è ancora diffusa una sensibilità critica verso l'euro che viene accusato di aver fatto aumentare i prezzi e ridotto i tenori di vita degli italiani. E la critica all'euro porta con sé anche una certa nostalgia per la lira, dimenticando l'inflazione e i tassi di interesse a due cifre che tagliavano, questi sì, i redditi dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. La crisi economica che stiamo attraversando dovrebbe aver insegnato che la ricchezza non nasce dagli equilibri delle monete o dalla finanza, ma dal lavoro, dall'innovazione, dalla capacità di sfruttare le occasioni dei mercati. L'Italia in questo ha grandi opportunità, anche perché ha saputo mantenere la propria economia centrata sul settore industriale. E per sostenere l'industria sono illusorie le vecchie scorciatoie delle svalutazioni che peraltro svalutano il patrimonio stesso del paese. L'Europa resta un grande traguardo raggiunto, ma è soprattutto un processo in corso che va sostenuto e in un certo modo guardato con simpatia. Due persone sono state condannate al pagamento di oltre 10.000 euro tra multa e risarcimento per aver pubblicato sul Corriere di Caserta la seguente opinione sulla direttrice del carcere locale. Sarebbe meglio una gestione al maschile. Motiva la Cassazione nella sentenza. La frase «sarebbe meglio una gestione al maschile» è oggettivamente diffamatoria, lesiva della reputazione ed è da sola idonea ad affermare la responsabilità sia dell'intervistato che dell'intervistatore. Dice ancora la Cassazione. L'affermazione è sganciata da ogni dato gestionale ed è riferita al solo fatto di essere una donna. Gratuito apprezzamento, contrario alla dignità della persona, perché ancorato al profilo, ritenuto decisivo, che deriva dal dato biologico dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Una sentenza da un lato sconcertante, perché mette oggettivamente fuori legge la semplice espressione di opinioni, anche se discutibili, ma siamo pur liberi di esprimere opinioni. Ad ogni modo, finché non verrà fatta una legge in materia, la Cassazione equivale a legge dove non c'è normativa in merito, vediamone il lato positivo anche per il maschile, solitamente più tartassato. D'ora in poi, guai a fare commenti sessisti. Ad esempio, sarà vietato dire «è più intelligente perché donna» oppure «è migliore perché madre» rispetto al padre. Fabio. Essendo una persona di scarsissima importanza e frequentando gente altrettanto poco importante, la probabilità che le mie telefonate siano intercettate è tendente allo zero. Meno male, perché altrimenti perderei tutte le mie amicizie e l'affetto dei miei cari e potrei venire accusata di concorso esterno in omicidi, istigazione al suicidio, di mobbing, eccetera, eccetera. Quante volte al telefono, sentendo il racconto di una faticosa e lunga vecchiaia, ho detto «Certo, se il signore la venisse a prendere, o peggio, se potessi le farei una puntura». Quante volte al telefono parlando di conoscenti importuni ho detto «l'avrei ammazzato» o peggio «l'ammazzerei». Quante volte al telefono ho detto di un mio familiare «quel deficiente non ha fatto questo» o «la tale è proprio sciocca». Quante volte ho detto della mia colf «poveretta, non ci arriva proprio». Insomma, per fortuna che non sono importante. Laura. Gentile direttore, mi chiedo come sia possibile che i giornali pubblichino numeri sulla partecipazione a manifestazioni di piazza che nessuno si prende la briga di verificare. Riportare che ad una manifestazione hanno partecipato 1.000, 10.000 o 100.000 persone e così via cambia radicalmente il peso e l'impatto che l'evento può avere sulla pubblica opinione e può avere effetti distorcenti sulle decisioni di molti, per così dire, indecisi. A Piazza del Popolo a Roma, sabato si è valutato che i partecipanti fossero 25.000 per la Questura e 250.000 per la Repubblica. Se si escludono queste sterili contrapposizioni di numeri, sterili perché la questura per molti non fa fede, nessuno ha speso una parola per dimostrare dove fosse la verità. Eppure non è poi così difficile verificare se i partecipanti a una manifestazione siano stati tanti o 10 volte tanti, una volta appurato che una data piazza è completamente gremita o gremita solo a metà. Non c'è da chiedere le mappe al catasto. Basta aprire Google Maps, cercare la piazza e poi verificarne le dimensioni, visto che l'applicazione riporta la scala. Se si applica questo procedimento alla suddetta Piazza del Popolo, si scopre che è un'ellisse lunga circa 160 metri e larga circa 97. Quindi lo spazio disponibile, compresi i monumenti, obelischi, fontane ed eventuali palchi per le autorità, è un po' meno di 15.000 metri quadrati. Calcolando generosamente che in un metro quadrato possono prendere posto 4 o 5 persone, una piazza completamente, sottolineo, completamente gremita, può ospitare tra le 60.000 e le 75.000 persone. Dimostrato quale sia la capienza massima, se un giornale afferma che ce ne entrano 250.000, mi sento autorizzato ad aver dimostrato che quel giornale qualche volta non verifica ciò che scrive. Forse qualche altro organo di stampa potrebbe, senza fare polemica, farlo notare. Un giornale che, anche se solo qualche volta non verifica ciò che pubblica, ha un comportamento discutibile e parecchio disinvolto che andrebbe fatto notare. Penso che non abbia alcun rispetto per le persone e che le voglia solo condizionare. E non mi piace per niente. Danilo. Egregio direttore, lei ha risposto alla lettera di Daniele, una bella lettera piena di considerazioni condivisibilissime, esortandolo ad andare a votare, perché altrimenti lascerebbe spazio a quella minoranza che nella politica cerca il proprio interesse. E poi ha detto che votare, oltre che un dovere, è anche un diritto e che bisogna difendere la democrazia. Caro direttore, della sua risposta a Daniele l'unica cosa che condivido è quando afferma che il voto è l'unico mezzo che abbiamo. Purtroppo è anche l'unico mezzo per fare niente. Io sono arrivato ad una convinzione. Lo Stato non è Berlusconi o Bossi o Bersani o D'Alema e chiaramente neanche noi cittadini. Lo Stato è quella grossa minoranza, circa 10 milioni di persone da diretti, indiretti, clienti e parenti, che si è impossessata delle istituzioni, occupandole, e da dove emana o gestisce leggi e regolamenti atti a piegare e distruggere noi sudditi. Non ci sono elezioni, manifestazioni, scioperi, movimenti che possano cambiare le cose. Sono fortissimamente arroccati al potere, protetti dalle loro stesse regole. L'unico sistema è ribellarsi singolarmente, individualmente, nei confronti di ogni piccolo satrapo che ti sta di fronte nella tua vita quotidiana. Quando succederà, e succederà non perché lo dico o lo auspico io, ma per esasperazione e fame, allora, con tanta sofferenza, avremo invertito il cammino. Carmelo. Egregio direttore, sottoscrivo in pieno la lettera di Daniele. Benché capisca il suo punto di vista, c'è un momento in cui si deve dire basta, proprio per evitare che lo status rimanga troppo quo. Come lei sottolinea, il voto è anche un diritto, e come tale lo percepisco anch'io. Quindi mi presenterò ai seggi e per la seconda volta nella mia vita, la prima è stata l'ultima elezione per la provincia, invaliderò la scheda, rendendo impossibile il lavoro a chi, una volta estratta la scheda dall'urna, potrebbe tentare di cambiare la mia espressione. Luigi Pavia. Si fa un gran parlare dell'assenza di dibattiti politici in TV. Devo dire la verità, non ne sento la mancanza. Non che mi ritenga un disinformato o un disinteressato, ma ormai non riuscivo più a guardare la maggior parte di tutte queste trasmissioni. Perché? Mediamente ne esce un gran caos. Difficilmente aiutano a farsi un'idea chiara di cosa sia stato fatto, perché e cosa si farà. Queste trasmissioni sono vissute dai politici come spot elettorali e quindi vanno lì a farsi belli, con slogan e concetti arcinoti. A dire il vero, ho apprezzato molto quelle poche puntate dei talk show che sono andate in onda senza politici. Secondo me, il dibattito politico dovrebbe essere, per la maggior parte, condotto con persone che giudicano l'operato dei politici. Quello che fanno dovrebbe essere tratto dai risultati ottenuti, che dovrebbero essere giudicati da persone equilibrate. Queste persone, per quanto possibile, non dovrebbero avere interessi diretti per questo o quel partito. I politici avrebbero diritto e dovere di apparire solo in occasione delle tornate elettorali e solo occasionalmente durante l'anno. Anche perché ho notato che il non politico tende ad argomentare le proprie opinioni con maggiore calma. Nessuno lo giudicherà o gli toglierà il voto per essere stato troppo sincero. Spesso invece il dibattito fra politici sfocia in urla, giusto per rendere complicata all'ascoltatore la comprensione del fatto. Il mio è un ragionamento in astratto, ma credo che in questo modo si otterrebbe anche una maggiore credibilità delle istituzioni e dei suoi rappresentanti. Rocco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.